Dunque, intanto buon pomeriggio a tutti. Io devo dire che ero qua ieri e avevo trovato le discussioni iniziali potenti e anche è molto raro trovarsi in un contesto di questo tipo. Quindi tutta la discussione di ieri un po' è anche il punto da cui mi piacerebbe partire per introdurre questo panel, perché ieri in questo spazio, che quindi ci porta dentro nel cuore della lotta di GKN, che è una lotta che non so voi, ma penso che per molti di noi sia stata rigenerante negli ultimi 2 anni, e spiace ovviamente, come dire, per la difficoltà di questi 20 mesi di occupazione, e però è stata una scintilla di potenza nel paradigma plumbeo della politica italiana, e quindi è stata una fonte di ispirazione fortissima. Quindi già essere qui dava un contesto completamente nuovo a una discussione che anch'essa è nuova, perché anche se appunto il discorso sulla letteratura working class, grazie ad Alberto Prunetti, da qualche anno ci accompagna, è vero anche che ieri sera, almeno a me, sembrava che questo tema working class, questa parola classe, fosse una parola comunque spiazzante, perché la mia generazione quantomeno è cresciuta con il nascondimento della parola classe. La parola classe era tolta dal dibattito pubblico. Io mi ricordo quando Tony Blair diceva: siamo tutti middle class, siamo tutti classe media. E io ho avuto l'impressione, crescendo, che tutto l'immaginario della generazione precedente di lotta, di trasformazione, per la mia generazione fosse stato completamente rimosso, e figuriamoci per quelle successive, e che quindi l'unica possibilità di trasformazione fosse diventata individuale, passare da una classe all'altra, ma non rivoluzionare completamente il sistema sociale. E ieri sera mi sembrava che questa parola classe effettivamente ci creasse comunque delle difficoltà. E allora volevo partire un po' dalle parole di Claudia Durastanti, che ieri sera ha fatto un intervento in cui diceva: ok, però io comunque con questa parola sono a disagio, perché in Italia si è molto romantizzata la povertà, si è fatta una pornografia del dolore, e per certi versi era come se tutto questo discorso sulle classi, l'appartenenza di classe, anche la collocazione di ciascuno di noi all'interno di un discorso di classe, si fosse sviluppato negli ultimi 40 anni dentro una grandissima allucinazione. Cioè, io ho avuto l'impressione di crescere dentro un'allucinazione. E magari dico anche perché, nel senso, ieri sera ciascuno provava a definire, a raccontare la propria genealogia di classe. Per quanto mi riguarda, per esempio, crescendo c'erano tanti elementi tra loro anche in conflitto. C'era una questione di povertà. Io ricordo molto bene l'angoscia di mio padre quando io ero adolescente, di fronte all'ondata di ristrutturazione che c'era stata alla fine degli anni 90, alla paura di perdere il lavoro e tutto quello che significava per un padre di famiglia cresciuto con l'idea di essere quello che porta a casa il salario, all'idea di lasciare le figlie, come dire, senza supporto materiale. Ma contemporaneamente, per esempio, io sono cresciuta in una famiglia abbastanza conservatrice, per cui non c'erano i libri, non c'era la storia di classe, non c'era il riconoscersi in una classe, c'era una gigantesca rimozione di classe. E in questa allucinazione, secondo me, siamo cresciuti in tanti, e per certi versi ci ha portato a dover ricostruire quello che la classe è, quello che le relazioni sono, quello che la solidarietà è, come si fa. E questa cosa mi tornava in mente anche perché c'è un po' un discorso: diamo per scontato cosa sia la letteratura working class. David Graeber, mi ricordo, aveva scritto un articolo bellissimo sul fatto che la classe lavoratrice è la classe che si prende cura degli altri, però poi, tolta tutta questo conforto di queste narrazioni, e di fronte anche ad altre narrazioni che sono state fatte dal punto di vista della classe dominante, mi sembra alle volte che questa idea di classe sia appunto meno scontata di quello che è. E io volevo partire, e mi tornava in mente fortemente quando Nietzsche diceva che la classe è impossibile, non perché sia impossibile, perché siamo in un luogo che ci dice che la classe è possibile, però è difficile. Quindi io volevo partire da questo punto. Ci conforta pensare di essere la classe non stronza tra le due che esistono, però è vero anche che dentro la nostra classe appunto c'è violenza di genere, c'è omolesbobitransfobia, c'è razzismo, e tutte queste cose vale la pena dirle, perché anche negli ultimi anni, in cui il discorso è molto cambiato, in cui il tema del razzismo, il tema della violenza di genere sono proprio sbucati dentro le nostre comunità, ogni tanto penso a casi anche di stupro in contesti della sinistra radicale, ogni tanto ci troviamo senza strumenti, o appunto contesti di razzismo, ci troviamo senza strumenti. Allora io volevo partire da qui, perché volevo partire da qui anche per partire dal libro di Dee Hunter, perché non dando per scontato ciò che la classe è, a quel punto la solidarietà di classe diventa una sorpresa, ma anche qualche cosa che possiamo imparare, qualcosa di cui possiamo dotarci degli strumenti per creare le alleanze, per creare la cura l'uno dell'altra. Ed effettivamente il libro di Dee Hunter è il libro perfetto per farlo, nel senso che è un libro, io dico il libro perché mi riferisco a Shav, però poi ovviamente il secondo libro che ha pubblicato, sempre per Allegre, Tute, Traumi, Traditori di classe, è un altro testo che riflette con un po' più di tempo forse anche sulle ambivalenze, che invece Shav con una tenerissima brutalità, mi viene da dire, pone sul tavolo. E quindi è il libro perfetto per farlo, anche perché io mi sono dimessa da un'università inglese giusto a settembre, lavoravo a Lancaster, che è nel nord dell'Inghilterra, ed è una terra molto povera, è una delle contee più povere del Regno Unito, e io lì mi sono resa conto, parlando con le studentesse e gli studenti, che la loro idea di classe è molto diversa da quella che magari avevo io. Cioè, le mie studentesse, per esempio, erano figlie della working class, figlie delle lotte dei minatori, avevano ragionato tantissimo, anche le colleghe, eccetera, sul tema dello stigma, della demonizzazione della working class, della criminalizzazione della working class. Lo stigma lo intendevano come il marchio, cioè un marchio che è quasi una cicatrice che qualcuno si porta dentro, che quindi è un trauma anche che ci portiamo dentro. E questi sono temi che Dee Hunter mette proprio in luce, e le mette in luce con, secondo me, con una capacità rarissima proprio di guardare cosa significa crescere in un contesto di povertà, che però non è, il problema non è solo la povertà. Mi sono scritta nel telefono perché non avevo né una penna né un foglio prima, ma mi sono riscritta tre frasi del suo libro che secondo me pongono appunto alcune questioni che magari possiamo un po' esplorare. E la prima è: a livello personale, negli ultimi anni ho cominciato a comprendere più chiaramente che la presente mancanza di benessere che provo ha sempre meno a che fare con le mie condizioni materiali e più a che vedere con i traumi che ho patito così a lungo. E un altro pezzo: attorno ai traumi viene alzato un muro, le persone non riescono a parlarne, però ci si aspetta che siano in grado di gestire il proprio comportamento sociale. Se non ci riesci, saranno le istituzioni statali a gestirle, punzecchieranno la tua psiche, creando nuovi traumi e facendo sanguinare vecchie ferite. Per evitare che accada, puoi provare a gestirti con alcolici e droghe per intorpidire mente e corpo. Qui già siamo a un punto in cui la classe, certo, è una questione materiale, però la questione materiale della povertà è anche la violenza a cui si è esposti, è anche appunto trovarsi in contesti che creano dei traumi. E noi spesso, quando parliamo di classe, pensiamo appunto che la questione materiale di per sé la risolva, invece secondo me l'esperienza è traumatica. Mark Fisher parlava di ferite di classe, non coincide necessariamente appunto con la questione materiale, e va capita, va curata, va intesa, anche perché crea diffidenza nella classe, spesso crea prevaricazione, non crea necessariamente solidarietà. E l'ultima dice, l'ultimo pezzettino dice, perdone, qui, più ci penso, più mi rendo conto che parte della mia ostilità verso la classe media e le persone dotate di un capitale di qualche tipo è collegata alla mia esperienza con i responsabili delle istituzioni attraverso cui sono passato nel corso della mia vita e alla differenza tra la povertà che ho provato e il senso di comunità e sicurezza di chi abitava nei quartieri residenziali dove andavo a rubare. Qui c'è un po'... ci sono due cose appunto, c'è questo trauma, c'è come questo trauma rivive, c'è come questo trauma ci rende anche alle volte oscuri a noi stessi in termini proprio di provenienza, di alleanze. E la cosa bella secondo me del testo di Dee Hunter è che nel suo testo la solidarietà è una sorpresa, è qualcosa che si, appunto, che si costruisce, ma che non è scontato, si deve proprio costruire. Allora io partirei da qui, cioè chiederei a Dee Hunter, se vuole, se vogliamo cominciare da Shav e quindi da, da come questa esperienza della classe, del trauma, e lui parla molto anche di colore della pelle, di essere un maschio bianco dentro un contesto di classe, che in che modo hanno agito nella sua esperienza di vita in questo testo? Fucking hell. Yeah, thanks. I don't even know where to start. Trauma. So it's probably easier for me to refer directly to the book and directly to my life rather than try and answer the question in an abstract sense. So I was, the first 9 years of my life, I was raised in an Irish traveller community. I know that Irish traveller doesn't translate very well into Italian, so that's just Irish people who lived in caravans and moved around the country. Forse è meglio se parlo prima della mia esperienza piuttosto che entrare direttamente nel libro. Per i primi 9 anni ho vissuto in una comunità irlandese, in una città inglese, ma era una comunità irlandese che si era trasferita lì. So straight off the bat you've got, I'm going to try not to speak in colloquialisms, so straight away you have a relationship to whiteness that isn't quite clear cut. It's not the good English whiteness. It's the bad Irish whiteness. Innanzitutto c'è una relazione con la condizione di essere bianco, però non è l'essere il buon bianco inglese, ma essere il cattivo bianco irlandese. So from the very beginning my identity was shaped as both viewed through pigmentation, through my skin colour as a white person, but at the same time through my accent and because of my family, I was considered by the English people, that I wasn't white. So, io, diciamo, la mia identità si è formata, sì, essendo un bianco, per causa del colore della mia pelle, ma essendo un bianco diverso, quindi ero considerato... caso della mia famiglia, del mio retroterra, dagli altri inglesi in modo diverso. Then at the same time we weren't working class really either, because we weren't in the formal economy, we weren't in industry, blah blah blah, we were stealing, we were robbing, we were dealing drugs. Non avevamo neanche un lavoro vero e proprio, c'era un'economia informale vendevamo droghe, rubavamo, cose del genere. So the good working class people of Britain hated us. Quindi la vera classe operaia inglese ci odiava. So this these things sort of impact how I sort of start to learn to be in the world, start to learn to enter into the world. I'd go to school and the teachers there would already have a particular opinion of me based upon like my Irishness and the travelerness. E così quando sono andato a scuola, per esempio, gli insegnanti avevano un'opinione particolare di me a causa del fatto che ero di origini irlandesi, del mio accento, del mio retroterra. The social workers would come and take me away, take my sisters away, take my cousins away, take us into care, then drop us back and forth, and they were very clear their contempt they held me and my family in. E gli assistenti sociali ci portavano via, hanno portato via me, mia sorella, ci portavano un po' avanti e indietro, ed era chiaro la sufficienza, anche il disprezzo che nutrivano verso di noi. And then you've got the cops. So earlier today I was sort of wandering around aimlessly thinking about the first time thinking about demonization and thinking about the first time I realized that there were huge swaths of people who couldn't fucking stand us. And I remembered a time when maybe five or six. Ah, okay. So la prima volta che ho cominciato a comprendere che c'erano certi standard, certe differenze, avevo 5 o 6 anni. And we were at like a post-christening from I think a cousin had got christened and we're at a party. We're everybody celebrating, drinking, blah blah blah. Christening. Yes, the Christian thing. Yeah. Okay. Se era una festa di battesimo, quindi c'era una festa come si fa di solito in queste occasioni. And there's a bang on the door. The door collapses and the cops run in, like a couple of dozen of them, and they're pushing everyone to the ground. I'm with my slightly older cousin Jonathan. And we're both slammed against the wall, like head first, and held there. And then slowly they arrest some of the men in the family. E a un certo punto si sente dei colpi sulla porta. La porta viene buttata giù. Entrano dentro una dozzina di poliziotti che buttano tutti a terra, sbattono mio cugino contro il muro e lo tengono fermo lì. And it goes on for about an hour, like there in the house, until they've taken the people they want to take away, taken them away. One of the kids said, why did they do that? And very quickly, I can't remember who it was, but someone just said, it's because they fucking hate us. And then someone else was like, no, it's because we're Irish. No, it's because we're travellers. Questo durò circa un'ora, portarono via anche una o due persone, e poi io come bambino mi chiedevo, ma perché l'hanno fatto? E le risposte erano, perché ci odiano o perché siamo irlandesi. I have this vague recollection of like trying to put this together, like why are we hated because of these parts of ourselves? And 20-30 years later, I read about how popular culture and discourses frame certain groups of people, but then I had no idea about this. Poi continuavo a farmi domande, poi 23 anni dopo ho cominciato a comprendere come un certo tipo di cultura popolare inquadra le persone. So all I'm taking out of that is, okay, the cops hate us because of that, the social workers hate us because of who we are, and so do the teachers. And then me and my mum and my younger sisters, we leave the Irish traveller community. We leave it because of the levels of patriarchal violence that are going on within it, primarily towards my mum, but also towards myself. Quindi ho cominciato a capire perché i poliziotti ci odiavano per una certa ragione, perché le assistenze sociali ci odiavano per un'altra ragione, così gli insegnanti. E poi dopo abbiamo lasciato quella comunità irlandese perché la violenza che era interna a quella comunità era diventata troppa. So the next community we live in is a multi-ethnic, multi-racial community of sort of lower working class. Like, on the, a lot of them are poor, a lot of them aren't, and no one is. Very few people are Irish. Very few, even fewer, were travellers. And I quickly start to realise that these people are all getting treated exactly the fucking same. E nella nuova zona, nella nuova comunità in cui abbiamo vissuto, era una comunità multiculturale, multietnica, con pochissimi irlandesi, una comunità comunque di, diciamo, di classe o lavoratrice, degli strati bassi, diciamo, della classe lavoratrice. E ho cominciato a comprendere che però le cose non erano cambiate, che queste persone venivano guardate allo stesso modo in cui venivamo guardati noi. In fact, in many cases they're getting treated a hell of a lot worse. I can walk around the street and not, you know, at age 10, 11, 12, 13, I can walk around the street and not get like harassed too much by other pigs. I can go to school and kind of like, if I don't say anything, I can hide in the background. Spoiler, very rarely do I not say anything. E io, e anche a me mi guardavano più o meno nello stesso modo. Io camminavo per strada, venivo, diciamo, guardato in modo strano. A scuola mi sedevo nei banchi, negli ultimi banchi, in qualche modo cercavo di nascondermi. So during this time I'm like going, well, I thought the reason we got treated like shit was because of the things that my family told me, that was because we were Irish, because we're travellers. And it's like, well, that's, is that true? I don't know. I start questioning all of that. And I'm also questioning it was in the context of like the violence that went on within the family. So I'm, part of me is going, well, maybe we were treated like shit because we were all behaving like, because of all the internal violence amongst us. And so there's like a level of self-loathing for my like particular identity at that point starts to generate and manifest. Quindi ho cominciato a riflettere nel corso del tempo che in qualche modo la violenza che avevo subito era più o meno la stessa, e a riflettere sulla violenza anche interna alla nostra comunità, alla stessa famiglia. So and then it's around this time I'm starting to get arrested and taken into young offenders institutes, like baby prison. And you know, in my head, I'm going, okay, I'm getting arrested because I'm robbing a house, because I'm selling drugs. So maybe it's just deserved. Maybe this is just the response to my behaviors that I deserve. Poi sono stato arrestato, ho passato il tempo in riformatorio e pensavo, sono stato arrestato perché ho rubato, perché ho commesso dei reati, perché è questa la ragione, perché mi sono comportato male. So maybe all the times that my family had the shit kicked out of them by the cops, or the social workers came, or the teachers treated us like shit, maybe this is all because we just deserve it. And then I'm looking at my neighbours and they're getting like arrested and people are dying on the streets and all that shit. And maybe it's because we all just deserve it. And I'm internalising the fucking violence of the state, or internalising the violence that the state perpetrates against us. E quindi pensavo che la violenza che aveva sofferto anche la mia famiglia fosse derivata dalle stesse ragioni, perché anche loro in qualche modo facevano qualcosa di sbagliato, si comportavano male. Così quando guardavo i miei vicini, persone anche che vedevo morire, persone per strada, pensavo che fosse la stessa cosa. In qualche modo interiorizzavo la violenza che veniva perpetrata su di noi, come se fosse una cosa normale. Anyway, I start to get, you know, I get a bit older, as you do, and I start to go to grown-up prison with all the big guys, and you know, I'm a small lad, so I keep trying to keep my mouth shut as much as possible, and I listen, and I listen to the stories that the older guys tell each other and tell me, and they have this acute political analysis that I start to learn from them, that we're doing these things, the things that have brought us to this prison, the things that have brought us to the street, the things that bring us to the needle, like their coping mechanisms for so much of the sort of material and cultural violence that hits us, we get hit with. E poi ho passato anche un periodo in una prigione normale, una prigione per adulti, e parlavo molto con i miei compagni di prigione e ho cominciato a comprendere le ragioni per cui loro erano lì. Lo stesso tipo di violenza che avevano subito loro, che era quella che più o meno avevo subito io. And then, maybe 10 years later, I'm sort of before I'm 30. I'm reading these books, and these books are telling me about like popular discourse and how culture shapes people's reality and the ways in which people from my background, people from the working class, the people from the underclass, people from lumpen positions, how they are presented in the wider world. Poi, con il corso del tempo, quando avevo intorno ai 30 anni o poco meno, ho cominciato a leggere libri che spiegavano l'influenza che il retroterra culturale ha sulle persone, il modo con cui ti forma l'ambiente in cui nasci, l'ambiente diciamo, popolare, di classe lavoratrice di basso livello o anche di sottoproletario. And I start to, you know, start to look at films and look at TV and look at newspaper stories and see that whenever a working class white guy is in any of them, so often they're just presented as violent idiots. And then I'm going, well, look at how, you know, an Asian woman is presented. That's not favorable at all. And like, there's all these different like stereotypes of how we're being presented in the public discourse. And poi leggendo gli articoli del giornale, libri, le serie televisive, il modo con cui le persone appunto della working class o anche le minoranze etniche venivano rappresentate era sempre stereotipato. Se una persona con un retroterra appunto di working class moriva era perché era uno stupido, cioè era in qualche modo colpa sua. So for every demographic, every part of the working class, whether racialized or gendered, there's a different stereotype for them, a different way to accentuate their ugliest characteristics or create characteristics around them. And I'm seeing this for the first time and I'm going, well, it's no fucking wonder the teachers fucking hate us. If this is the sort of media, this is the information they're consuming about us, it's no wonder the social workers are whacking down our doors to take the kids away. It's no, well, I mean, the police are a special case because they're just fuckers. Così, quindi, riflettendo su tutta questa serie di stereotipi che affollavano i media, il modo con cui questo tipo di persona veniva caratterizzato, ho cominciato a comprendere meglio come mai allora appunto gli insegnanti, gli assistenti sociali ci guardavano in quel modo, ci odiavano in quel modo, perché erano anche loro influenzati da questo tipo di rappresentazione. So when I think about trauma, I think about the work that has to be done to unpick the ways in which I've internalized these narratives around me and my friends and my family, and unpick the process like the visceral and the physical traumas that these institutions have put upon my body. Così quando penso al appunto ai traumi che ho subito, le istituzioni che ho attraversato, sia psicologici che sul mio corpo. And at the same time there is the process then as someone who is racialized as white, someone who's gendered as a cis man, who has reproduced different forms of violence in their everyday life over four decades now. So when I think about trauma, I think about the ways in which I've reproduced the trauma, like reenacted it upon my culture, upon my social situations. Così penso a come i traumi che ho subito hanno influenzato la formazione, la mia cultura, ormai per alcune decine d'anni. And I think about the avalanche of work that is needed to be committed to both as an individual, both and more importantly maybe as a member of a working class community, the work that needs to be done to deconstruct and deconstruct the trauma and the violence that has been that I carry and my community carries. And the ways in which we're trying to come up with new ways of being with each other, new ways of caring for each other, new ways of passing it on to the translator. E quindi l'impegno deve essere quello sia a livello individuale, ma soprattutto come membro di una comunità di classe, diciamo, a livello collettivo, di decostruire i traumi che abbiamo subito, in qualche modo per trovare un modo di costruire un tipo di rapporti diversi per prendersi cura gli uni degli altri. Sorry, what was the question? Qual era la domanda? A prescindere dalla domanda, la risposta era perfetta. Prima di passare la parola, adesso in un secondo, volevo solo dire la ragione per cui era così importante fare questa ricostruzione alla fine della storia di Hunter è che forse nel Regno Unito tutto è avvenuto in modo ancora più viscido e pervasivo, cioè la classe, l'odio di classe si nasconde nei supermercati che sono tutti differenziati a seconda della classe che può andare a fare la spesa in un certo posto, la lingua è di classe, l'accento è di classe, ogni cosa parla dell'odio di classe. A me questa cosa ha un po' stupito perché ho sempre pensato che gli Stati Uniti fossero caratterizzati dal razzismo, il Regno Unito dal classismo, l'Italia dal fascismo come categorie dominanti, quindi sentirla raccontata così bene un po' secondo me aiuta, anche perché in Italia forse è stato un processo un po' successivo questo di accusare, si può dire anche di gaslighting, cioè il carnefice che accusa la vittima di essere povera, di non farcela, ed è un processo paralizzante perché ci si può sentire veramente in colpa quando si è così violentemente accusati delle proprie condizioni e della violenza anche che c'è. E che genera appunto la povertà materiale, la marginalizzazione, la privazione di strumenti come in Italia il reddito di cittadinanza, ti tolgo tutto e poi ti do la colpa. Per cui tutto questo racconto così personale e ricco, ma anche molto sensibile, di cosa significa fare un processo di ricostruzione di sé, che è anche un processo politico, era prezioso. E io passerei la parola a Ornella De Zordo, che appunto ha già presentato Giulio e che magari appunto ci racconta anche cos'è la demonizzazione nel suo lavoro nella letteratura inglese. Sì, allora io credo che quello che stiamo vivendo oggi qui sia qualcosa di unico, lo devo dire, perché non solo perché abbiamo sentito veramente, cioè, non solo perché abbiamo sentito di Hunter parlare di sé nel modo in cui l'ha fatto, che poi è il modo in cui scrive praticamente, ma per il luogo dove siamo, e non mi ci soffermo, insomma, una fabbrica in lotta, è la prima volta che succede una cosa del genere, e poi perché stiamo dedicando quasi 3 giorni a un tema che è quello della letteratura working class, che è stato quantomeno cancellato dalla cultura ufficiale, quando non demonizzato. E allora ci chiediamo, ma che cos'è questa letteratura working class? Perché noi abbiamo sentito ieri bene che è stato spiegato ed è stato discusso sul fatto che la working class, e usiamo questo termine perché è più ampio, perché comprende non solo la classe operaia, ma comprende anche i disoccupati, i sottooccupati, gli sfruttati di ogni genere, no? Quindi con questo termine, ma come si può definire la letteratura working class? Allora, se ne è discusso, no? Ne hanno discusso in termini, è quella che viene raccontata da chi viene da questa classe sociale, oppure quella letteratura che si rivolge a chi appartiene a questo ceto sociale, o ancora la letteratura che descrive le condizioni di vita e l'esistenza di chi sta in questa classe sociale. Beh, io credo che nessuna di queste 3 domande esaurisca il senso, perché manca un elemento che sta nel titolo di questo incontro, che è orgoglio di classe. Questo è l'elemento distintivo che fa sì, per esempio, che la grande letteratura realista dell'Ottocento ha ben descritto la situazione di quelli che una volta si chiamavano i poveri, no? Nell'Ottocento. L'ha descritta benissimo, pensiamo a Dickens, a Zola, ma lo stesso Verga in Italia. Ma quella non è letteratura working class, perché lì non c'è quello scatto che fa dire io sono orgoglioso della mia appartenenza di classe, non la rinnego. E questo è qualcosa che Dee Hunter continuamente fa, ma anche Alberto Prunetti, ma insomma un po' tutti fanno. Non rinnego la mia appartenenza di classe, e c'è un'energia che arriva da queste pagine che è un'incitazione alla lotta. Questo è quello che contraddistingue la letteratura working class, e questo è quello di cui abbiamo bisogno. Allora, questa è una letteratura potenzialmente sovversiva, e quindi ho già detto tutto sul perché è stata cancellata, demonizzata, esclusa, no? Dalla cultura alta. Allora, facciamo un esempio. L'Inghilterra. Perché l'Inghilterra? Beh, anche perché è il luogo e la cultura che ha espresso forse il maggior numero, si diceva anche ieri, no? Di una produzione vastissima. Poesia e prosa working class. Prendiamo gli anni 30, che sono il decennio in cui c'è proprio l'esplosione di questa scrittura. Voi non avete idea di quanti scrittori, di quanti testi, soprattutto romanzi, siano stati scritti nel corso degli anni 30 in Inghilterra, di cui non si sa assolutamente niente. I romanzi degli appartenenti alle famiglie di minatori di carbone del Galles hanno prodotto romanzi che raccontavano l'esistenza misera proprio che queste famiglie vivevano, ma non se ne sa niente, non solo noi, ma nemmeno, dico, chi ha studiato in Gran Bretagna o nelle varie università inglesi. Oppure ancora tutti quegli scrittori che in quegli anni provenivano da famiglie working class che lavoravano intorno alle navi e quindi di derivazione marinara, che facevano i lavori più umili, magari si imbarcavano, magari aggiustavano le navi, anche lì ce ne sono tanti. Io ricordo che abbiamo dato delle tesi di laurea, no? Su alcuni di questi, James Henley forse è quello un pochino più noto. E ricordo che appunto non c'era bibliografia critica, no? Come si diceva, cioè non c'era niente di scritto su di loro, quindi era un lavoro di ricostruzione che si doveva fare del contesto culturale, sociale da cui provenivano questi romanzi. Beh, questa è qualcosa che, voglio dire, è un esempio eclatante. Gli anni 30 poi sono interessanti perché sono proprio il decennio in cui la critica ufficiale, la cultura alta, sancisce che laddove c'è impegno politico non ci può essere arte. Cioè, se tu scrivi ma sei mosso da un impulso politico, la tua non sarà vera arte. Guardate che detta così sembra un po' banale, ma questo ha pesato tantissimo, perché gli stessi intellettuali impegnati in quel decennio sono andati a combattere la guerra di Spagna, e quindi Spender, Oden, insomma gente che non faceva parte della working class, la critica non poteva proprio ignorarli, però li ha semplicemente bocciati, ha detto beh, ma loro, le loro opere non sono l'arte con la A maiuscola, l'artista con la A maiuscola. Loro hanno un impegno sociale che trasuda dalle loro parole, questa non è arte. E questo pregiudizio, l'altro termine che sta nel nostro incontro di ora, questo pregiudizio ha pesato tantissimo, tanto che è stato introiettato da loro stessi, perché se prendiamo uno di loro, troviamo che scrive a un certo punto: certo, la mia generazione sta pagando un prezzo alto, perché noi che siamo antinazisti, antifascisti, antifranchisti, che andiamo a combattere e che scriviamo nei nostri testi questo impegno, non possiamo pensare di arrivare alle vette dell'arte, quella che hanno fatto i modernisti, Joyce, Virginia Woolf, no? Che si occupavano dell'interiorità del soggetto. Quindi un pregiudizio così pervasivo, così forte, che gli stessi protagonisti l'avevano accettato, accolto, l'hanno pagato il pegno, ma erano consapevoli di questo. Quindi, guardate, è pesante. Per non parlare poi dell'uso che è stato fatto, e qui vado proprio a volo, vero, rapido, negli anni 50 di questo pregiudizio, perché pensate, anni della guerra fredda, qui era un'idea centrale nel mondo occidentale, la vera arte è quella che si può fare nel mondo occidentale. Non so se avete presente che cos'è il maccartismo degli anni 50 negli Stati Uniti, il razzismo, il sessismo, cioè tutto quello che c'è, di tutto si potrà parlare tranne che di libertà d'espressione, eppure ancora una volta quella era, no, l'ambito in cui l'artista si poteva esprimere, certo saltando tutta una serie, no, di argomenti che erano tabù. Insomma, non ve la sto a fare lunga perché l'argomento potrebbe diventare anche un po' palloso, devo dire. Quindi la faccio un po' più breve e dico che, arrivando alla fine del Novecento, a me pare che qualcosa si stia muovendo. Negli ultimi 10 anni mi pare che ci siano delle aperture sulla produzione della letteratura working class. Soprattutto è cominciato nel mondo anglo-americano, ho presente alcuni testi che, anche teorici, che mettono a fuoco che cos'è la letteratura working class, che cos'è la classe, ecco il recupero della parola classe, no? Di cui appunto Francesca parlava, a cui accennava prima, si ricomincia a parlare di classe, il che significa si comincia a smantellare quel mito che siamo tutti appunto classe, le 50 sfumature di classe media, no? Che eravamo tutti no, non è vero, ci sono gli oppressi e ci sono gli oppressori, cominciamo a dire le cose, e la critica ha cominciato a aprire spazi, e qui significa dare anche un po' più di spazio a chi scrive questo tipo di narrativa. Sarà interessante anche l'incontro successivo a questo, no? In cui ci saranno poi i protagonisti, proprio gli scrittori o la scrittrice, ci sarà, che parleranno della loro esperienza di oggi. Ma io credo che insomma anche questo festival sia un segnale di qualcosa che può aprire, no, gli spazi, e può soprattutto ricominciare a introdurre parole che non si dicevano più, che non si potevano dire, e naturalmente questo è grazie anche alle lotte che davvero vengono fatte, perché la teoria sganciata poi dalla pratica delle lotte, insomma, serve a poco. Ecco, allora io chiuderei questo primo giro, spero di non averla fatta troppo lunga, dicendo che insomma dobbiamo essere tutti grati a Alberto Prunetti, e forse possiamo dire insieme a lui: no, questo non è un pranzo di gala. Dunque, noi vogliamo lasciare circa 15 minuti alla fine per domande, anche se ovviamente la sala è molto grande, però cominciate magari a pensarci se avete delle domande. Io farei l'ultimo giro molto veloce di battute, nel senso che l'ultima cosa appunto che stavamo dicendo, che stava sollevando Ornella, è quella di rompere il mito, ed effettivamente negli ultimi mesi, a partire dagli ultimi 2 anni forse, anche dopo la pandemia, a partire dall'ondata, io penso, di scioperi, visto che parliamo di Regno Unito, che hanno praticamente bloccato un paese, l'ondata di scioperi negli Stati Uniti, il rifiuto del lavoro, perché alla fine in Italia, anche in Francia, quello che è successo appunto nella rivolta contro le pensioni, un pochino ha fatto crollare il mito che il liberismo stia sempre in piedi, perché si stanno vedendo le crepe da tutte le parti, e a me colpivano molto le proteste francesi, perché anche proprio il linguaggio con cui ci si esprimeva lì in quelle piazze voleva proprio dire: noi non ne possiamo più di lavorare, noi, e quindi quest'idea poi alla fine di parlare di working class, a un certo punto per me ci dobbiamo pure chiedere di che cosa stiamo parlando. Mi ricordo le mie studenti ancora in Inghilterra che dicevano working class è la classe che lavora, ma già se percepisci un reddito non sei più working class perché non lavori. Ma per me la cosa rigenerante delle piazze francesi era proprio sentire dire ma noi non vogliamo lavorare più, cioè a noi interessano le pensioni ma noi non vogliamo lavorare più. E quindi qui c'è tutto un grande mantello di piombo da sollevare che viene appunto dalla schiavitù del lavoro, dalla povertà delle condizioni in cui ci siamo trovati a lavorare, ci troviamo a lavorare, perché in Italia oramai gli stipendi vanno sempre di più verso le 700, 600, 500 euro, stiamo parlando di povertà vera e propria, ma stiamo parlando anche del fatto che veramente nel terzo millennio dobbiamo avere ancora un immaginario di classe uguale a quello dell'Ottocento, del Novecento, in cui bisogna solo alzare gli stipendi, o possiamo veramente dire per una volta che magari possiamo anche cambiare completamente il paradigma produttivo, riprenderci il tempo di vita che ci è stato tolto per secoli. Ecco, io farei... Io farei l'ultimo giro veloce sulla solidarietà, che cos'è, come la cura reciproca, nella tua storia, devo scusarmi per le domande troppo generiche, sorry. C'è nel tuo libro? Sempre semplici le domande, Non lo so. fucking hell. Right. What is solidarity and how long have I got? 10 minutes. Right. This might take me 5 minutes to think about. Yes. Thank you, D. Ci devi un po' pensare, quindi comincia Ornella. Eccoci, appunto. No, allora, brevemente, così almeno dopo sentiamo lui, perché siamo qui per sentire lui, secondo me, molto. Allora, niente, individualismo, egoismo, capitalismo, queste sono le parole che noi dobbiamo ricominciare a dire, perché se non si spezza questa specie di cappa che ci ha avvolto da tanto, insomma, noi diciamo sempre dagli anni 80 in poi, ma insomma certo che serpeggiava anche prima, certo che gli anni 70 hanno dato un po' uno scossone, però è tanto che ci, sempre di più pervasivo. Ecco, adesso forse le crepe che si stanno aprendo devono essere crepe però che uniscono le lotte concrete anche a questa elaborazione, cioè al fatto che tutte le lotte sono unificabili e si devono unificare, perché tutte vanno contro lo stesso sistema, no? La letteratura working class va contro un sistema che crea le disuguaglianze. Bene, le lotte di classe, tutte, dovunque siano, ma dovunque siano anche nel mondo, sono contro lo stesso sistema che in tutto il mondo ci ha ingabbiato. Allora, siamo diventati, ci hanno reso più individualisti e più egoisti di quello che avremmo potuto essere anche chi non voleva. Ecco, questa è la consapevolezza che dobbiamo avere. Quindi questo io, sì, la solidarietà è un termine che maneggio con difficoltà, perché non mi basta, a me non basta che siamo solidali, no, noi ci dobbiamo stare nelle lotte, ce le dobbiamo sentire addosso, e non perché io non sono una che lavorava nella GKN, no, ma perché siamo tutti dentro lì. E allora io penso che questo sia rendersi, primo passo, rendersi conto che ci siamo tutti e tutte dentro a questo sistema, e tutte e tutti possiamo fare qualcosa, cioè non accettare più questo sistema entro cui ci hanno ficcato. Basta, parola tecnica. Okay. I think I got what was being said there. I'm not sure My version of solidarity is the same. Non credo che la mia versione della solidarietà sia la stessa. I agree with the big points. Questa è la grande questione. But I feel I'll speak specifically within the UK context, which is often a dangerous thing to do because the class system doesn't just exist. The UK class system doesn't just exist in the UK. Colonization, etc., makes that so. E partirò dal contesto del Regno Unito. È un contesto molto difficile per tutto il reato terra, del classismo pervadente, anche il colonialismo, la storia, insomma, di quel paese. But I think because of the sheer success of atomization and individualization and the belief in a meritocracy was in the UK has meant that everyone, the working class is so profoundly fragmented, so profoundly separated from one another in both material and cultural and psychological ways. C'è stata una fortissima atomizzazione, individualizzazione, la classe lavoratrice, la working class nel senso più ampio del termine è terribilmente frammentata sia dal punto di vista di condizioni economiche, sociali, culturali. Solidarity becomes a process, a series of actions which will not immediately bring us into one big group, but will teach us through practical activity the things that connect us. E la solidarietà è un processo che non è un processo immediato, ma che ci insegna anche sul piano pratico, va costruito passo passo anche sul piano pratico. I think to engage in these kind of this solidarity process is going to be ugly, it will be painful, it will require periods of failure and mistakes. Impegnarsi in un processo di costruzione di solidarietà è qualcosa anche di doloroso, in cui si commettono anche molti errori. As we unmake some of the violence we have been taught, the atomization that we have been taught, that has created quite separate subjectivities. Il processo di atomizzazione, la violenza che abbiamo subito ha creato una frammentazione molto forte. And I think one of the dangers that exists within the UK context, particularly at the moment, particularly in the trade union movement, the trade union movement I value, like I think it's of great importance, but one of the mistakes being made is to homogenize the class experience, to flatten it, to flatten it, to pretend we're already all in the same boat, to pretend that our experiences are already the same. E in particolare, per esempio, nel movimento sindacale c'è questa idea che in qualche modo siamo tutti sulla stessa barca, che siamo tutti uguali, che non ci siano differenze nella nostra classe di riferimento. For me, the solidarity that needs to exist right now is partly a recognition that is not the fucking case, that the solidarity now is to stand by the, you know, so I'm in academia now for my fucking sins. I'm in academia now for my fucking sins. Again? No, just to me. Okay. So I work in a university. Okay. That's much more simple. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Sorry. Scusate. Appunto, lavoro all'università. Questo si è capito, credo. Adesso da un po' di tempo lavoro in un ambiente universitario. And the universities in the UK, there has been an ongoing struggle for 3 years on and off strikes. All'università nel Regno Unito già da 3 anni ci sono delle lotte abbastanza importanti. And right now it's all the union itself and the union membership, it's, there's a lots and lots of fighting right now. Adesso appunto il movimento sindacale sta promuovendo lotte piuttosto importanti. And there's many reasons for this. Some of it's political, some of it's just like ideological differences, but one of the key points for me is the huge stratification within the workforce in universities. Ma uno dei punti cruciali, a mio avviso, è la stratificazione nella forza lavoro tra i lavoratori dell'università. And this mirrors the stratification within the broader working class within the UK. E questa stratificazione esiste nella classe lavoratrice in senso lato nel Regno Unito, quindi in tutta la classe lavoratrice. And it's, for me it's become quite clear that it's the refusal to acknowledge that stratification that limits the abilities of that struggle. È molto chiaro per me che se tu rifiuti di comprendere questo tipo di stratificazione che esiste nella classe lavoratrice, questo ha un impatto negativo sulle lotte che tu vuoi organizzare. So for me, when I think about solidarity, I think about being able to go past that difference in subjectivity, that difference in positionality, being you know, as a member of the university, as someone who works at the university, being able to go, well, the doctor struggle, or the bin man struggle, or the drug dealer struggle, those are struggles I should be thinking of acting in solidarity and hoping that will be reciprocated. But I think there needs to be an understanding that there is a difference at the same time. I'm really articulating this badly. So, per me la solidarietà vuol dire anche comprendere che se ci sono delle lotte, lotte dei dottorandi, lotte dei lavoratori dell'università, queste lotte si devono aiutare l'un l'altra, appunto bisogna creare della solidarietà tra le diverse lotte, ma nella comprensione che ci sono delle differenze, che non si tratta esattamente della stessa cosa. So having stumbled over that answer, I'm just going to wrap up and just say I think one of the important parts of solidarity for me is to engage in critical care and critical engagement with one another, about how we are enacting our politics within the working class, how we are understanding the different material, cultural and psychological conditions different parts of the working class have, and thinking of ways in which we can start to draw connections and commonalities as we engage in broader struggle. Quindi per me solidarietà significa anche comprendere le differenze che ci sono fra le varie stratificazioni della classe lavoratrice e quindi costruire a partire da quello. Abbiamo 10 minuti per una domande e commenti, ne raccogliamo da qui per chi vuole insomma avvicinarsi, ne raccogliamo due o tre, quello che riusciamo a fare. Ciao, io volevo chiedere molto rapidamente rispetto agli scioperi di cui parlava Francesca prima, quali sono oggi, se li conoscete, di Francesca e la professoressa, narrazioni, rappresentazioni di questa nuova ondata di scioperi che non ha pari negli ultimi 40 anni in Inghilterra? Lo chiedo in relazione al motivo per cui io sono stato in Inghilterra, per altri movimenti nello stesso momento, che sono movimenti ecologisti, che sono movimenti della classe media in rapido impoverimento, che riesce a avere delle nuove rappresentazioni e delle nuove narrazioni mentre sta lottando e proprio per lottare. E mi sembra che gli scioperi, anche stando ai picket line, in questo anno ormai inglese senza pari, non abbiano narrazioni e rappresentazioni all'altezza della novità che stanno rappresentando, per quanto siano scioperi di una classe operaia in grandissima maggioranza bianca. Buonasera, io sono Sergio Scubra del cartoneificio fiorentino qui vicino e quello che avete detto mi ha posto delle riflessioni. Io non credo nella solidarietà, come intesa in questo senso. Io credo che noi abbiamo bisogno di prendere coscienza individualmente della nostra forza, di quello che siamo, delle nostre necessità, degli abusi, della violenza che tutti i giorni subiamo, e attraverso questo creare un movimento che non sia di solidarietà, ma di unione, proletari di tutto il mondo unitevi, non l'ho detto io, di unione di diverse anche necessità, ma in fondo è sempre lo stesso problema, che siamo sfruttati fino alla morte. Questo è il problema fondamentale. E come si fa, volevo chiedere, in questo momento in cui la cultura di massa è in mano a chi ci propina spazzatura tutti i giorni, a sfondare il muro per far sì che ci sia una rivoluzione culturale attraverso la quale riuscire a far capire alle persone che che non gli piace leggere, che non gli piace, ma guardano solo la televisione, come far loro capire che si può cambiare. Grazie. Volevo chiedere che ne pensa del lavoro, dei lavori di Angry Young Men e di Richard Allen, della trilogia di Richard Allen. Richard Allen. Sweethead. Non è colpa mia stavolta. Volete 5 minuti per pensarci? Abbiamo tre questioni alla fine, sì. Potete prendere l'angolatura, sì, che preferite. Allora, no, sul discorso che tu facevi, io non conosco testi che facciano una rappresentazione dall'interno o comunque, diciamo, che tocchino questo fenomeno dell'ultimo anno. I libri che trattano Working Class, che noi troviamo anche qui, in parte tradotti, qualcuno no, non sono così, capito, aggiornati, quindi non sono... Certo, probabilmente qualcosa è uscito, probabilmente bisognerebbe cercarlo, ma la dice lunga il fatto che appunto non ci sia ancora qualcosa che ha perlomeno di accessibile, insomma, no? Su quest'ultimo anno di lotte. Io credo siano usciti più degli scritti, ma non di scrittura creativa, ma certamente riflessioni, articoli, eccetera, eccetera, ma tu chiedevi un'altra cosa. Perché quello di cui c'è bisogno è anche un immaginario, che è quello che per l'appunto, ecco, appunto, la casa editrice Alegre e chi si impegna su questo fronte sta proponendo la creazione di un nuovo immaginario di cui abbiamo bisogno. Poi invece, peraltro, sì, il discorso sulla solidarietà io lo capisco, però lì l'abbiamo declinato anche in maniera diversa questo termine, abbiamo sentito... Io dicevo, a me sono un po' scomoda con questo termine, quindi sostanzialmente sono abbastanza d'accordo, anche perché dare solidarietà a volte è anche un modo per sgravarsi un po' la coscienza, no? Metto una firma, metto una cosa, sono solidale, ho capito, però poi dopo vado a fare le mie cose. Quindi stiamo attenti, certo, se invece viene usato come l'ha usato che dice per me solidarietà è impegnarsi anche nel confronto, cioè, allora è un'altra cosa, capito? Un po' così. Ecco, io poi passerei. Finalmente la riscoperta delle parole che spiegano e non mistificano. E a questo proposito ricordiamo che, scuotendosi la polvere del muro di Berlino, quel che restava della sinistra diceva: le ideologie sono finite. In effetti, finite le ideologie, dominante la meta ideologia della fine delle ideologie. Chiedo, in questo recupero di terminologia non mistificante, torniamo anche a un utilizzo della parola ideologia nel suo significato, appunto, che poi successivamente è stato mistificato, ideologia come idealità, perché non è possibile non essere né di destra né di sinistra. Grazie. Allora, dunque due cose giusto per provare a chiudere, ma anche in riferimento alla questione che diceva Alberto. Di Hunter ha detto che adesso prende una pausa, tanto al panel dopo anche, per cui adesso lo annunciamo. Sulle mobilitazioni inglesi io non so se sono convinta che non ci sia un immaginario, nel senso che poi storicamente tutte le trasformazioni che ci sono state sono accadute quando hanno bloccato la produzione. Quello che hanno provato a fare nel Regno Unito è stato bloccare la produzione dal Portuale in poi, e quindi un impegno più forte di così io non lo posso vedere, e quindi forse siamo indietro come narrazioni, però se siamo avanti con le azioni per me va anche bene così per certi versi. Sulle ideologie sì, riprendiamocele, però prendiamoci anche quelle nuove, perché comunque le lotte transfemministe, le lotte antirazziste in Italia finalmente hanno alzato anche quella cappa.